invece troppo ardito. Dare forma all'infinito, troppo semplice, troppo ardito. Dare forma all'infinito. Che dico, che penso, unendo una contraddizione in un doppio senso, crea un mondo, il mio ingegno, come un bambino che colora il suo disegno, cambiando colore al mondo daltonico che non vede il lui pittore. E la lingua si bloccherà cercando un'espressione che traduca un'emozione. E la lingua si bloccherà, non si può dire a parte. Thank you. forma all'infinito.